Ma io direi sicuramente la Sicilia, in particolare le isole della Sicilia, quindi le Eolie. Non dico le Eolie a caso, ma perché proprio a Stromboli, per esempio, donne con il cuore spezzato come Anna Magnani in passato hanno ritrovato la forza di andare avanti. Lei era Vulcano in realtà, e di fronte a Stromboli invece c'era Rossellini con la sua nuova amante, che sì, era l'attrice svedese, eccetera. Ma lei è riuscita comunque a rifarsi e a farcela e a vincere addirittura un Oscar. Quindi direi che se avete il cuore spezzato, andate lì, fatevi coccolare dai siciliani, dalle calorie siciliane che sono al caffè. E quindi, se invece volete, Federica, sapere dove portare i vostri cuori, oggi pomeriggio un'intervista a Federica Brunini, la nostra travel therapista, autrice di Travel Therapy. Federica, noi ci sentiamo. Dottoressa Lidia Rotavender, una magnifica giornata anche lei. Grazie, grazie, a domani. Grazie a voi. Essere e benessere.